Forza. Sì, ok. Conta quante rime cantate coi miserabili. Contiamo sulla scena senza essere contabili. Abili dialettiche, metriche, dirette. Dall'incastro infette pagine attaccate con graffette. Bocce aperte, freestyle nella 1. A novembre con il freddo quando fuori è già buio. Sono sicuro che la gente viene con me. Si distacca da una società che clona il Big Mac. Re della crew che va su più pesante. Come un corteo di pacci capitanato da un panzer. Walzer non li cantiamo ma suoniamo. Da Melegnano a San Donato, passando da San Giuliano. La gente che sta sotto il palco è la mia gente. La gente che guida la scena senza patente. La gente che non fa finta d'essere altra gente. Non mente su se stessa e fa quello che si sente. Mentre il pomeriggio esco fuori al freddo. Di notte con gli spray andiamo a fare un nuovo pezzo. Jam nel locale o all'aperto porto. Tanta gente come l'aeroporto 14 d'agosto. Senza valigie ma con borse sotto l'occhio. E poi l'aperitivo alla forza con il bianco sporco. Se poi parlano male dei nostri nomi, sono uno scrittore che vi protegge come Goldoni. Posa, hey, la sua gente. Posa, hey, la sua gente. Posa, hey, la sua gente. È da anni che sono un rap dipendente. Posa, hey, la sua gente. Posa, hey, la sua gente. Posa, hey, la sua gente. Alza le mani se il suono si sente. Con la pilot, piloto questa bironera. Auguri alla gente che spera e fa carriera. Ora tra i kebab e pullman della star. Assorbo i gas di questa città col mio clan. Siamo in giro, è l'asfalto che schiaccio. Andiamo sui palchi per la gente a cui piaccio. Facciamo questa musica, sforniamo troppe pagine. Chi non ha cultura lo fa solo per immagine. Con Pete e Williams alla bocca riscaldiamo l'atmosfera come il fuoco in una grotta. E se la gente gratta, gratta e vince e perde. Uno verde di speranza, due rimane al verde. Non puoi farci niente chi non è intelligente. Spara terza uomo e dice non ho fatto niente. Comparo e con stoma, capisco il loro idioma. Facciamo una lunga strada come una maratona. Cambio la zona, Losca Produzioni fuori. MC rappresentanti le nazioni tricolori. Sosta coi colori che partorisce dal grembo. E beatbox con la bocca realizzati da tempo. Poi 0371 DJ Browser. Beat che contaminano come le lebrose. Più altre persone che tengo solamente. Fanno tutte parti di Posa e la sua gente. Posa, hey, la sua gente. Posa, hey, la sua gente. Posa, hey, la sua gente. È da anni che sono un rap dipendente. Posa, hey, la sua gente. Posa, hey, la sua gente. Posa, hey, la sua gente. Alza le mani se il suono si sente.